Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e i temi di questa giornata economico-finanziaria. Ricorderemo anche la notizia che già era presente nei nostri GR24 sul rapporto Istat, dal punto di vista delle povertà da un lato, ma dall'altro le famiglie senza lavoro e anche le famiglie presenti sul mercato del lavoro, ma le famiglie, quella è la notizia che ha dato più, che ha avuto più risalto, le famiglie dove lavora solo la donna. Sono quasi 1 milione le famiglie, 970.000 con e senza figli, dove la donna risulta occupata a tempo pieno o part time, mentre l'uomo è in cerca di occupazione o inattivo, quindi o pensionato o fuori dal mercato del lavoro. Il dato riguarda i coniugi o i conviventi tra i 25 e i 64 anni. In 200.000 famiglie monogenitore, 192.000 famiglie, ci sono 192.000 famiglie dove c'è solo la mamma, cioè manca il padre, ed è senza lavoro. Cifre in aumento rispetto all'anno precedente del 5%. Dicevo, di questo parleremo, ma anche e soprattutto parleremo, da un lato, non di Alitalia, se ne è appena occupato poco fa Oscar Giannino, e non ci sono grosse novità se non appunto l'analisi che avete appena ascoltato, per chi fosse in collegamento. No, ci occuperemo, all'Italia verrà data in breve, della TAP, ossia il gasdotto che deve Transadriatic Pipeline, gasdotto da 877 chilometri, 550 sono in Grecia, 215 in Albania, 8 km in Italia e 104 km nel mare Adriatico. Questo lo dico perché già se uno legge la lunghezza del gasdotto capisce che la parte italiana è una parte minima, minoritaria, è il gas che deve arrivare da noi, non è il gasdotto che ci deve attraversare. Sostanzialmente è un gasdotto che dalla frontiera greco-turca attraverserà Grecia e Albania per approdare sulle coste della Puglia, provincia di Lecce. Dovrà trasportare il gas proveniente dal Mar Caspio, con una capacità di 10 miliardi di metri cubi l'anno. Ora, perché ne parliamo? Perché qualcuno ricorderà anni fa, quando vi furono problemi nell'approvvigionamento di gas, ci fu la crisi, che poi scoppiò anche, diventò anche una crisi di carattere militare, e ci sono ancora le sanzioni con l'Ucraina, ma negli anni precedenti vi furono delle ritorsioni tra Mosca e Kiev, insomma fu bloccato parte dell'approvvigionamento di gas, e andammo a ragionare per intere puntate quant'è lo stoccaggio che ha l'ENI di gas nel paese, quanto possiamo resistere se si bloccassero gli approvvigionamenti, bisogna fare le piattaforme dove possa essere rigassificato, diciamo, il gas liquido che arriva dalle navi, e aumentare l'accesso, diciamo, le pipelines, quindi i canali di accesso. Ora, è bello parlarne quando siamo in crisi e si teme per l'approvvigionamento del gas. Poi però, passata la festa in questo paese, gabbato lo santo, quando poi si va concretamente a cercare di fare qualcosa, c'è questo TAP, ripeto, che non è un accordo nostro, è partecipato al 20% da Snam, al 20% da British Petroleum, al 20% dal gruppo dell'Azerbaijan Socar, al 19% della belga Fluxys e al 16% della spagnola Enagas e del 5% della svizzera Axpo, anche perché questo gas non andrebbe tutto in Italia. L'Italia sarebbe il paese che lo riceve, parte verrebbe utilizzato anche da altri paesi, ecco perché abbiamo partecipazioni di altri paesi. Perché ne parliamo? Perché per, se ho ben capito, 200 olivi, adesso vi darò il dato preciso, per carità, massimo rispetto per gli olivi, ci siamo occupati anche della xylella, ci siamo occupati anche del traffico di olivi tra Puglia e Nord Italia, perché c'erano insomma ricchi acquirenti del nord che amavano circondarsi di olivi nel giardino, ma insomma per un gasdotto del genere, qualcuno mi scrive, è per quello che hanno infestato il territorio pugliese con la xylella. Vedete, queste proprio sono le bufale, le fake news di cui alcuni si abbeverano. Ma che cavolo c'entra la xylella con il gasdotto? Facciamo pace con il cervello ogni tanto. Il problema è che Emiliano, probabilmente per un obiettivo tutto e solo politico, dice se si forza l'espianto degli ulivi, e l'espianto è lo spostamento, perché non li stiamo segando sti ulivi, li stiamo spostando, e gli ulivi, come sanno tutti quelli che li commerciano legalmente e anche illegalmente, si possono spostare. Ha detto: la Regione Puglia considera non ottemperata la prescrizione 44, quindi secondo noi lo spostamento degli ulivi è illegittimo. TAP più xylella, mettendo assieme pere con le mele, vanno considerate anche dal governo. Ci vuole molta prudenza, bisogna evitare le forzature, perché quando si forza la reazione popolare può essere fortissima. Torniamo a un tema che in questo paese non si è mai risolto, quello del NIMBY, cioè tutto va bene, basta che non sia nel mio giardino. Ora, siccome esiste l'interesse nazionale, di questo parleremo, per carità, spostare gli ulivi con la massima attenzione ci mancherebbe, ma immaginare che blocchiamo un gasdotto transnazionale che riguarda noi e altri paesi, che dovrebbe garantire una nuova fonte di approvvigionamento del gas per gli ulivi, per una cifra, ripeto, irrisoria di ulivi, è da pazzi, e la dice lunga su quando la politica, invece che pensare e avere anche una visione, segue, diciamo, a pancia bassa la pancia, va bene? Così il messaggio mi sembra abbastanza chiaro, e ne parleremo, perché questo la dice lunga sull'incapacità poi di questa classe politica anche regionale. Eccole qua, infatti qualcuno mi scrive che la cicala sputacchina lavora per la Merkel, ammettilo Barisoni, sì, sarà proprio così, perché a questo punto perché non collegare qualunque fenomeno di epidemia a Bilderberg, a complotti pluto-giudaico-massonici, alla Merkel, all'Europa, alla finanza internazionale. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Parleremo anche della rottamazione delle cartelle Equitalia, è uno scandalo quanto sta avvenendo a Roma. Io capisco che vi siano tante richieste, ma allora si organizzi meglio il lavoro, gente che va a far la fila per pagare i soldi al fisco, cioè per rottamare la cartella o sfruttando appunto i benefici della rottamazione, e fa la fila dalle 4 di notte, si mette in fila con i figli, delle immagini inconcepibili. Comunque, il termine del 31 marzo, mi chiedo cosa si aspetti per prorogarlo fino al 21 aprile, deve essere un provvedimento però del governo. La borsa, parleremo anche di noi di nuovo, perché il titolo sulle 24 ore è di nuovo più forte, è ancora più forte di ieri, 25%. Dai calcoli che abbiamo fatto è passato di mano circa il 13% del capitale. Sappiamo che il flottante, cioè il capitale del Sole 24 Ore in borsa, è il 33%, essendo il 67% invece dell'azionista di maggioranza, che è Confindustria. Il 13% del 33% che è il flottante, insomma siamo a oltre un terzo. Poi Modelleria Brambilla più 19%, il fronte invece dei titoli a maggior capitalizzazione vede Banco BPM più 3, Biperbanca più 2,5, Atlantia più 1,40, Snam più 1%, fronte opposto ST Microelectronics meno 4, Fiat Chrysler meno 3,40, Exor meno 3, CNH meno 2,90, Hughes Entreporter meno 2,5, Unipol meno 1,80, Ferrari meno 1,60 come Leonardo. Complessivamente l'indice perde lo 0,33%, Parigi meno 0,30, Francoforte meno 0,80, Londra meno 0,70, Dow Jones meno 0,70, e l'euro su dollaro in rafforzamento a 1,08. Parleremo, visto che citavo il caso di Mediaset, anche degli stracci che stanno volando nuovamente tra Vivendi e Mediaset, perché lo faremo praticamente in apertura. Perché sulla vicenda che ha portato Vivendi a scalare Mediaset e diventare secondo azionista in maniera relativa del gruppo, scalata definita ostile, devo dire che così è stata, visto come si è sviluppata, ci sono oggi di nuovo denunce da una parte e dall'altra, nel senso che c'è la prima udienza a Milano per il processo civile che vede contrapposti Fininvest e Vivendi per la vicenda Premium, ma quindi quando Vivendi ruppe l'accordo di acquisire Premium. Il gruppo francese, nel frattempo Vivendi, ha depositato una domanda di risarcimento del danno per diffamazione contro Mediaset, contro Fininvest. Stessa mossa l'ha fatta poi Mediaset a seguito delle dichiarazioni dell'amministratore delegato di Vivendi, Depuy Fontaine, che in un'intervista ieri al Financial Times ha detto: Fininvest ha fornito indicazioni fuorvianti sul reale stato di salute della sua pay TV Premium, ci avevano presentato premium come una Ferrari, ci siamo accorti che era una Fiat, punto. Ora non so se la causa debba essere fatta anche dalla Fiat, perché insomma non è che la Ferrari, ho capito, e la Fiat punto sia una cosa da... Però al di là della battuta, la situazione è così. Vivendi chiede i danni per diffamazione, Mediaset chiede i danni per diffamazione Vivendi, il giudice ha detto sapete che c'è, uniamo le cause Mediaset, Fininvest, i due procedimenti, li unifichiamo, quelli contro Vivendi, e poi andiamo a vedere. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Rapidamente le altre notizie in breve. Ecco, posso essere anche più preciso sugli ulivi, perché questo è un paese bellissimo, no? Per un gasdotto di strategico a livello internazionale ci occupiamo degli ulivi. Gli ulivi sono 221, verranno spostati e poi rimessi lì. Io mi chiedo, Emiliano, al di là del suo obiettivo politico, invece di occuparsi di una regione che delle volte entra e anche spesso nella nostra classifica sugli sprechi, che cosa vuole ottenere? Dimostrare che è il paladino degli ulivi? Non so, chiedo, perché stiamo parlando del nulla. Vabbè, andiamo avanti, adesso ci arriviamo. Le altre notizie in breve, dicevo, partiamo dall'Ecofin. Il ministro Padoan ha ribadito che le riforme continuano anche con il voto, anche se si sta quindi entrando in un anno tecnicamente elettorale. C'è stato finalmente un accordo del Consiglio Ecofin sull'accettare l'equiparazione dell'IVA sui libri cartacei e sui libri elettronici, cosa che l'Italia aveva già adottato, vabbè, tra l'altro, e per la quale era stata paventata anche una procedura di infrazione. E poi io ascolterei questo Padoan e l'altro Padoan che dice via garanti dell'eventuale dissenso con Matteo Renzi. Non ho avuto scambi in questi due giorni, oddio, a vedere le nomine. C'è chi ha scritto, riscritto e ridetto che invece gli scambi ci sono stati, che le nomine delle partecipate sono andate esattamente nella direzione voluta da Matteo Renzi. Comunque ascoltiamo Padoan sia sulle riforme d'IVA che su l'incontro o il non scambio con Renzi. Ho avuto l'opportunità su richiesta della presidenza del Consiglio europeo di fare una presentazione dettagliata sul processo di riforme relative al business environment nel nostro paese, che è stata molto apprezzata. In particolare ho fatto notare come alcune riforme richiedano anche misure che favoriscono l'inclusione sociale, quindi mi sono riferito alle azioni del governo recente e ho ribadito che l'azione di riforma del governo continua anche se tecnicamente stiamo entrando in un anno elettorale. La seconda cosa che volevo menzionare è che c'è stato finalmente accordo nel Consiglio su accettare l'equiparazione dell'IVA su libri cartacei e su libri elettronici, cosa che l'Italia aveva già adottato ma che per la quale era stata paventata una procedura di infrazione che invece a questo punto viene sollevata, e quindi noi abbiamo fatto da apripista su questa questione importante. Il governo continua ad andare avanti, ho ribadito ai miei colleghi europei che l'impegno rimane nei termini e nei tempi che già sono noti. Vi garantisco che con Matteo Renzi non ho avuto scambi durante questi due giorni. L'Italia continua sulla sua strategia di riforme, di misure a favore delle imprese. Ci saranno misure a favore delle imprese anche nelle misure che vareremo tra poco, e poi naturalmente c'è la legge di bilancio che comincia già a delinearsi, e ci saranno misure di sostegno in particolare per le zone del terremoto che, come sapete, sono considerate fuori dal punto di vista dell'obiettivo di riequilibrio strutturale, quindi con meno problemi. Le clausole di salvaguardia sono in questo momento legislate per il 2018, vedremo come gestirle. Ah, Allora andiamo avanti con le altre notizie. Vedo che alcuni mi scrivono: guardi che l'olivo è trapiantato, non tornerà più, mai più allo stato di salute del pre-espianto. Guarda, io non sono un esperto di olivi, neanche di olivi politici. Faccio notare che si vendono gli olivi, anzi anche illegalmente si sono venduti gli olivi secolari pugliesi. Beh, mi fido che se mi si dice che si può spostare e essere rimesso, visto che potrà essere rimesso lì, 33 li hanno già rimossi con le zolle, è bellissimo questo paese, con le zolle, e rimpiantati, ok? Per cui e c'è un micro tunnel da realizzare, ma adesso vi arriviamo sugli olivi, perché è chiaro che insomma, tutto è prioritario in questo paese. Allora, dicevamo invece di cose. Padoan sulle banche, sì, questo mi interessa perché molti mi stanno chiedendo il Monte dei Paschi di Siena. Padoan ha incontrato oggi a margine anche dell'Ecofin il commissario Vestager. È andato bene l'incontro, ha detto Padoan. Non sono arrivate richieste con scadenze precise da parte di Bruxelles sulla vicenda Monte dei Paschi di Siena. Si sta lavorando per minimizzare i tempi, ma anche per trovare soluzioni stabili e durature. L'incontro con la commissaria Vestager, che è l'unico che ho avuto per ragioni di agenda piuttosto stretta, è andato molto bene. Continuiamo a lavorare nei dettagli tecnici sul come applicare in pratica la misura di ricapitalizzazione precauzionale che il governo ha lanciato e che deve essere ovviamente utilizzato in base a regole europee molto chiare. Le banche venete hanno fatto richiesta ufficiale di utilizzo della ricapitalizzazione precauzionale, adesso starà innanzitutto alla Banca Centrale Europea decidere la sostenibilità delle banche e poi si passerà al dialogo con la Commissione. Senta, all'Ecofin lei doveva parlare anche di NPL, mi sembra. No, non ha parlato di questo. Non ha parlato perché non era all'ordine del giorno, forse se ne parlerà al prossimo Ecofin informale a Malta. Abbiamo parlato dei criteri di applicabilità del meccanismo di ricapitalizzazione precauzionale e non di gestione di NPL o sofferenze. Allora, vabbè, trasformiamo il programma in un programma botanico. Qualcuno mi scrive che ha spostato a casa sua 10 ulivi e dopo 10 anni solo uno non è sopravvissuto. Va bene. Altri mi dicono: facile fare dell'ironia quando lo Stato espropria gli altri. Aspetta che la riprendo. Tutti fanno una cosa. È facile fare una cosa con qualcosa di qualcun altro. Le hanno mai espropriato qualcosa? Senta. A me non hanno mai espropriato qualcosa, non ho ulivi, non ho giardini, è difficile che... Ma in questo paese abbiamo fatto la TAV, c'è l'alta velocità da fare tra Milano, Venezia, Prata Capacità, ci sono anche degli espropri, delle compensazioni. Allora, uno mi può dire, non va bene la compensazione economica? Allora lì si ragiona, ma non puoi, come dice Emiliano, no, non si toccano gli ulivi quando io, italiano, ho un interesse nazionale che è superiore all'interesse politico elettorale del presidente della regione Puglia che fa campagna sulla TAP. Ma da quando è che Emiliano è esperto di ulivi? Allora, la xylella, che era un problema serio, l'abbiamo è stata affrontata, quello era un problema serio. Questa è chiaramente un pretesto, su. Ma da quando è che i 200 ulivi, di cui 33 non da distruggere ma da espiantare con le zolle e poi rimettere lì, diventano un problema? Va bene, va bene, va bene, andiamo avanti. Sì, giustamente un ascoltatore mi dice: ma le talpe? Nessuno pensa alle talpe. Lo so, adesso ci occuperemo anche delle talpe. Immagino una petizione popolare sulle talpe. Ecco, no. Se possiamo parlare di cose serie, serissime, ahimè, vorrei ricordare i dati dell'Istat di oggi. Oltre 1 milione di famiglie senza lavoro. Nel 2016 il valore è rimasto pressoché stabile. È calato leggermente, meno 0,7% sull'anno prima, e questo fa anche capire quanto sbagliata o fuori dalla realtà fosse la cosiddetta narrazione dell'ex presidente del Consiglio, perché quando tu vedi che poi le famiglie senza lavoro sono ferme, di fatto non puoi raccontare che il paese ha svoltato in quel modo, a mio avviso. L'abbiamo detto più volte prima del referendum. Allora, sono il 6,6% di tutte le famiglie presenti sul mercato del lavoro, che sono in tutto 16 milioni e mezzo. E allora, sui senza lavoro, 448.000 sono famiglie formate da coppie con figli, 290.000 sono famiglie con un solo componente, single, più spesso uomo che donna. Seguono 220.000 famiglie fatti da nuclei monogenitoriali, e stavolta sono più donne, 192.000, cioè la stragrande maggioranza di chi delle famiglie composte da un solo genitore sono donne, e 80.000 coppie senza figli. Il mezzogiorno ha la predominanza, ahimè, 587.000, al nord 300.000, al centro 200.000. E poi la cosa che deve far riflettere, per essere buoni, è che in 970.000 famiglie con o senza figli, la donna risulta occupata a tempo pieno o part time, mentre l'uomo è in cerca di occupazione o inattivo. So già che questo scatenerà le battute sulla vicenda, diciamo, da velo pietoso della RAI, perché a proposito delle donne che lavorano, la battuta verrebbe facile: chissà di da dove vengono queste 970.000 donne che da sole mantengono lavorando e gestendo spesso anche i figli, va là, perché poi la sostituzione con l'uomo disoccupato non la vedo, e cioè ti becchi comunque anche il lavoro della mamma, non... oltre che mantenere la famiglia. Chissà da dove vengono, secondo, diciamo, gli autori della RAI, queste donne di queste famiglie, che mantengono mariti e figli senza avere, diciamo, una sostituzione. Cioè non ci vedo tutti questi italiani che si mettono a fare le pulizie, a cucinare e a organizzare la vita domestica al posto della loro moglie, visto che loro sono disoccupati e l'unica che lavora è la moglie. Chissà, vengono dall'est, dal centro, dal sud, mandate a lavorare. Allora, veniamo a un'altra forma di migrazione, che è quella di carattere sanitario. Un esodo, cioè un vero e proprio esodo in questo paese, di cure dalla propria a un'altra regione. Allora, vediamo un po' la classifica, perché la sanità in Italia è pubblica e il servizio sanitario è nazionale. Poi sappiamo che grazie alle disfunzioni, malversazioni, sprechi, furti, soprattutto, lo raccontiamo nella classifica, nelle agenzie sanitarie del sud, nelle AS del sud, mi dispiace dirlo, c'è una migrazione a senso unico. Allora, la Campania meno 281 milioni, vuol dire sono i soldi che la regione deve dare in compensazione per chi va a farsi curare in un'altra regione, tipicamente del nord. In tutto sono 4 miliardi e 100 milioni di euro l'anno. La Campania ha un esborso di 281 milioni, segue la Calabria con 275 milioni e il Lazio con 230 milioni, mentre al nord c'è l'opposto, la Lombardia, grazie a un buon sistema sanitario o ritenuto tale da chi si deve far curare, ha un avanzo di 600 milioni che le regioni del sud che ho citato, e non solo quelle, danno alla Lombardia. L'Emilia Romagna 347 milioni, il Veneto 150 milioni. In tutto sono 8 regioni, le altre, tutte quelle del sud e anche la Puglia, hanno un saldo negativo. No, che c'è oltre il danno c'è la beffa, perché tu hai un costo di un servizio sanitario comunque al sud, e la regione, invece che mantenere quei soldi nella regione del sud, che sia Campania, la Calabria o quant'altro, li deve dare alla regione del nord. Ma questo dovrebbe dimostrare agli amministratori delle ASL, ai dirigenti delle ASL del nostro mezzogiorno, che se venissero adottati altri criteri ci si potrebbe anche guadagnare la sanità, perché non è scritto da nessuna parte che non vi possa essere un travaso inverso, cioè che qualcuno dal nord venga a curarsi in un centro d'eccellenza del sud. Devi farli però i centri d'eccellenza. Allora, mi sembra che ci sono già abbastanza elementi, tutti calmi, senza nessuna polemica. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo sul metro della pubblicità e poi partiamo con la fila indegna degli italiani che vogliono rottamare le cartelle Equitalia, quindi mettersi in regola con il fisco, neanche quando ci sono i saldi a New York. Abbiamo visto cose del genere, gente che si è messa a Roma alle 4 di notte o con i figli la sera aspettare che aprissero gli sportelli di Equitalia. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Dopo il meteo. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Allora, andiamo sulle rottamazioni. Giustamente mi chiedete, ma qual è il deficit sanitario della Puglia, e cioè quanto paga la Regione Puglia, le regioni del nord per i viaggi, diciamo, sanitari, non so come chiamarli, insomma, il dato era abbastanza emblematico prima. La Regione Puglia ha un deficit di 184 milioni di euro. Allora, vuol dire forse, no? Il turismo sanitario, come lo chiama qualcuno, sarebbe a mio avviso più importante quello dei 220 ulivi. Perché Emiliano non ci aggiorna su cosa intende fare per fare in modo che la regione non dia alle regioni del nord 184 milioni di euro e i pugliesi restino a curarsi in Puglia, però con delle garanzie, perché non sono mica pazzi, vanno al nord evidentemente perché non trovano una struttura sanitaria adeguata, è di pertinenza regionale. Il gasdotto no, la sanità sì. Facciamo che ognuno qua si occupa del suo. Comunque il fisco, Giovanni Parente del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, c'è la rottamazione delle cartelle, si possono rottamare le cartelle, sistemiamo la qualità del collegamento con Parente, grazie. Si possono rottamare le cartelle che hanno data compresa tra il 2000 e il 2016, nonché le multe stradali e anche il bollo auto. Chi aderisce paga l'importo delle cartelle senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali invece non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Non rientrano nella sanatoria i ruoli relativi all'IVA riscossa all'importazione, al recupero di utili di Stato, ai crediti a danno erariale, per sentenze di condanna della Corte dei Conti, alle ammende o alle sanzioni pecuniarie. Quando si deve pagare? La rottamazione consente di pagare il debito in un'unica soluzione entro luglio 2017 o in 5 rate. Le rate poi devono essere saldate nei mesi di luglio, settembre, novembre 2017 e nei mesi di aprile e settembre 2018. La prima rata è pari al 24% del totale, la seconda e la terza al 23%, le ultime due al 15%. E poi in caso di rateazione sono dovuti gli ordinari interessi di dilazione. Come si paga? Si paga o attraverso la domiciliazione bancaria con i bollettini precompilati disposti da Equitalia. Perché, Giovanni, abbiamo visto soprattutto a Roma Est file fuori dai cancelli, code per accedere allo sportello dove si consegnano i biglietti che danno diritto a trovarsi davanti all'impiegato, praticamente senza coda notturna? Non c'è ordine quando si aprono i cancelli, la coda inizia la sera prima fra le 9 e le 11 di sera. La distribuzione dei biglietti scritti a penna con la data e il numero progressivo viene messa sotto un sasso vicino al cancello, cioè siamo all'autogestione pura. Il guardiano del parcheggio, il barista e gli intermediatori abituali dicono che è un bene che ci sia l'autogestione dei contribuenti per evitare la rissa avvenuta già diverse volte all'apertura dei cancelli. Chi gestisce i biglietti? Boh, stiamo sviluppando un mercato neanche dei biglietti? Ma si rivendono i numeri. I professionisti della coda, questo è un paese, guadagnano 20 euro a pratica, più biglietti, più clienti, più soldi. C'è addirittura chi si è preso ferie e permessi al lavoro, chi è arrivato con la famiglia, i bambini, si sono accampati in macchina con le coperte, pronti a tutto. Spesso lo sportello si raggiunge solo al terzo tentativo. Possiamo ascoltare un po' di voci raccolte vox populi di gente che aspettava davanti ai cancelli? Io sono venuta qui, c'era un signore che metteva il signore chi l'ha fatto? I biglietti la sera. Adesso buttiamo i numeri, dopodiché si è arrivato per primo. stanotte, entra e così via. Lei è arrivata adesso, entra all'ultimo numero. Quella è venuta alle 9, dopo magnato ieri sera, ma stava scherzando. Questa arriva alle 3 di notte, c'ha l'80. Allora io mo apro il blocco note e scrivo numero 1 per giorno di domani. E mi presento domani in mattina. 51. Ecco. 52. 69, 70, 71, il numero? 71, 71. Oh, basta, non passa, chiama quello dopo. Cioè, ce ne rendiamo conto, no? Ma altro che autogestione. Allora, Giovanni Parente, com'è possibile? E che cosa ha generato questo? Perché, insomma, la rottamazione ha anche dei tempi un po' più lunghi. Perché il governo sta pensando a una proroga e su che cosa? Fino al 21 aprile. Esatto, la proroga al 21 aprile che è stata già approvata in commissione ambiente alla Camera all'interno del decreto terremoto servirà per la presentazione delle domande. Contestualmente viene prorogato anche il termine entro cui Equitalia dovrà fornire le risposte appunto con il conto da pagare per la rottamazione. Ecco, Giovanni, scusami, questo vale per le cartelle Equitalia, cioè se io ho preso una multa e non è ancora andata in cartella Equitalia, faccio un caso del tutto teorico, ci mancherebbe, ma non rientra in questo nella rottamazione? Allora, lì c'è stato un meccanismo per cui, siccome la rottamazione riguarda i ruoli 2000-2016, Equitalia doveva comunicare entro il 28 febbraio ai contribuenti interessati tutti quanti quei ruoli che cioè sono stati trasmessi per poter essere riscossi, ma che non sono stati ancora tradotti in una cartella. Quindi c'è stato anche questo meccanismo di comunicazione, insomma, che riguardava i ruoli del 2016. Ovviamente noi stiamo parlando di ruoli dell'agente della riscossione, quindi in questo caso Equitalia e Riscossione Sicilia, che è un soggetto diverso da Equitalia per quanto riguarda la Sicilia, mentre poi c'è tutta quanta la partita degli enti locali, comuni ma anche regioni, che non si affidano più ad Equitalia come soggetto riscossore, che utilizzano l'ingiunzione di pagamento e che possono liberamente deliberare, perché il termine è stato poi prorogato entro il 31 marzo, se aderire o meno alla sanatoria. Quindi insomma le file di cui avete parlato riguardano sicuramente le file agli sportelli di Equitalia. C'è stata una pressione fortissima nell'ultimo mese. Basta pensare che i contribuenti serviti agli sportelli sono stati in media circa complessivamente 534.000, con un aumento del 28% rispetto allo stesso periodo del 2016. Quindi è stato fortissimo l'impatto della rottamazione. Credo che però insomma il problema che si è verificato a Roma, che è stato puntualmente documentato, è un problema che però vada un po' indietro nel tempo e che abbia insomma anche altre radici, insomma. Ok, ma adesso se tutto verrà prorogato fino al 21 aprile, immagino che la decisione debba essere presa brevissimo, visto che il termine di scadenza è il 31 marzo. Questo secondo te potrebbe aiutare a smaltire? Perché insomma, secondo la consulta nazionale dei CAF, dei centri di assistenza fiscale, è ipotizzabile che nei prossimi giorni milioni di italiani, 530.000 le domande fino a ieri, si accalchino nelle sedi delle società di riscossione per multe stradali, bolli auto e vari importi, oltre che sanzioni per errori nelle dichiarazioni fiscali e tra l'altro molti di questi chiederanno probabilmente un pagamento diluito e senza interessi. Insomma, basterà spostare a 21 aprile? È un tentativo. Ovviamente qual è il vero nodo di questa rottamazione, Sebastiano? Che il contribuente che ha le cartelle presenta la domanda, ma al momento della presentazione della domanda non sa con esattezza quanto dovrà pagare. Quindi anche questo elemento di incertezza un po' ha portato i contribuenti a muoversi più sotto la scadenza e a ritardare anche il momento della presentazione della domanda. Devo dire la verità che nelle ultime settimane, diciamo a partire dal 2017, è stato forte la spinta data da Equitalia alla gestione telematica anche dalle anche da parte delle domande. Sì. Dallo scorso weekend è stato messo, lanciato questo servizio che si chiama EquiPro, che è legato ai professionisti, che quindi possono con le loro credenziali e attraverso la delega del contribuente. Sì, infatti molti mi stanno scrivendo che su web c'è il conteggio subito, non si poteva fare domande di rottamazione via internet. Finiscimi il ragionamento, perché è importante questo, perché prego. Sì, no, no, certo, questo serve a deflazionare le code agli sportelli, cioè naturalmente rivolgendosi a un CAF, a un professionista, hai la possibilità di farti fare la domanda. Mm-hmm. E tant'è vero, insomma, che le prime cioè il primo bilancio parla addirittura di 15.000 domande che sono già arrivate attraverso questo questo canale. Quindi l'invito agli ascoltatori è utilizzatemi, ridici il sito? Il sito è quello, il sito ovviamente è quello di Equitalia. Mm-hmm. Credo sia www.gruppoequitalia.it. Ok. No, pensavo ci fosse anche un sito apposito. Andiamo sul traffico, perché mi fanno segnare in regia che devo andare sul traffico. Utilizzate il sito internet, domani sul Sole 24 Ore ampio dettaglio anche della cosa. Utilizzate il sito internet e poi vediamo di capire, daremo notizie anche noi, se vi sarà almeno la proroga, vista la mole di domande, per mettersi in regola utilizzando la rottamazione con il fisco. Già, grazie intanto a Giovanni Parente, traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Focus Economia. Allora, la borsa, e parliamo di noi in primo luogo. La borsa ha fatto meno 0,25%, Parigi meno 0,20%, Londra meno 0,70%, Francoforte meno 0,70%, Dow Jones meno 0,80%. Il Sole 24 Ore per il secondo giorno è il miglior titolo, sospeso anche per eccesso di rialzo. E vorrei capire almeno il dato, diciamo, sulla parte di flottante, cioè la parte di azioni trattabili che è passata di mano. In realtà il miglior titolo alla fine è stato Modelleria Brambilla in questi ultimi minuti, cioè prima della chiusura, più 35%, Sole 24 Ore più 30%. Ciao Condina, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Faccio notare che va molto bene anche Classe Editori, più 10%. Quanto è passato di mano del Sole 24 Ore? Visto che è flottante, più o meno il 33%, no? Sì, diciamo che sostanzialmente dalla seduta di venerdì è passato di mano largo circa oltre il 14%. Nella seduta di oggi sono quasi 10 milioni di pezzi, che corrisponde al 7% del capitale che è passato di mano proprio oggi, quindi insomma a testimonianza di scambi piuttosto intensi. Il 7% per un titolo in una sola seduta è una percentuale abbastanza importante. Sì, poi adesso qualcuno mi chiede le motivazioni insomma, non le abbiamo, se no ve le avremmo date. La cosa importante è che appunto siamo a più di un terzo del capitale, no? Ma il contato, cioè del capitale trattabile. È trattabile, perché il resto poi è in mano all'azionista di riferimento, che è Confindustria, poi ci sono altri azionisti minori, se non sbaglio insomma trattabile c'è poco più del 30%, quindi, e quindi siamo assolutamente a più di un terzo, quasi la metà del capitale trattabile, ammesso che lo abbia, non sappiamo se è andato l'unico soggetto o a quanti soggetti. Comunque, Ceo, resta con noi, ho il GR24 e poi gli altri titoli, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andremo anche sulla vicenda Mediaset e poi su questi benedetti ulivi dopo il GR24. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. :18 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vorrei concludere l'approfondimento di borsa, e dentro al quale avremo un altro approfondimento sulla vicenda Mediaset. Ciao Condina. Oggi bene le banche, qui ci sono delle dichiarazioni della Banca Centrale Europea che riguardano anche soprattutto le nostre banche sui non performing loans, cioè sulle sofferenze bancarie. BPM più 3,20, BPER più 3%, Intesa più 0,90%. È uscito un un cosiddetto paper, insomma un lungo documento della BCE, chi l'ha spulciato dice che sostanzialmente ci sarebbe disegnato un percorso per la riduzione dei crediti problematici da parte delle banche italiane un pochino più, diciamo, più morbido, quindi ci sarebbe un pochino più di tempo per risolvere questo problema. Questo ovviamente è positivo e oggi in borsa hanno recuperato appunto molti istituti di credito, i rialzi erano molto corposi a metà seduta, poi diciamo con l'apertura in rosso di Wall Street anche i rialzi delle banche sono stati un pochino meno corposi. E devo dire che comunque Milano in media perde meno delle altre, meno 0,20 come Parigi, Francoforte appunto meno 0,70, Londra meno 0,70 anch'essa. ST Microelectronics meno 4,25, ci sono notizie particolari? No, nessuna. Oggi ricordiamo che ST è il titolo che ha performato meglio per tutto il FTSE MIB nel 2016. Oggi, quando sono arrivate le vendite, insomma nel pomeriggio con Wall Street che ha girato in rosso, queste vendite si sono concentrate un po' sui titoli un po' più ciclici, un po' sui titoli che avevano appunto performato meglio nelle ultime settimane. Tra questi c'è ST, ma c'è anche tutta la galassia Fiat con FCA che ha ceduto il 3,8%. Sì. E anche Ferrari ha lasciato sul terreno l'1,9%, questo anche conseguenza di un brutto andamento del settore delle quattro ruote in Europa, a livello di borsa sempre. A livello di borsa, no, perché le immatricolazioni rallentavano, le abbiamo viste la settimana scorsa, ma non così male. Peggior titolo a Mondo TV France, e poi c'è la vicenda Mediaset, nel senso che il titolo perde l'1%. Intanto ringrazio Ciao Condina. Grazie a voi, buona serata. Radio Corriere Sole 24 Ore, e saluto invece Stefano Elli del Sole 24 Ore. Stefano, buonasera. Buonasera a voi. Perché ne parliamo? Perché qui, insomma, la vicenda, l'affare si ingrossa, no? Come... Perché, insomma, la prima udienza a Milano vede contrapposti Fininvest e Vivendi per la vicenda Premium. Ieri, in un'intervista al Financial Times, il numero uno di Vivendi, ricorderete che ha scalato in maniera ostile Mediaset, diventando secondo azionista a ridosso praticamente, al 29%, a ridosso quasi di Fininvest. Dicevo, De Puy Fontaine ieri in un'intervista al Financial Times ha detto, in merito al loro mancato rispetto dell'accordo di comprare Premium, ci avevano presentato Premium come una Ferrari, invece ci siamo accorti che era una Fiat, punto. Esatto. Tra l'altro, lo scorso aprile Mediaset e Vivendi, un anno fa quasi, avevano firmato l'accordo che prevedeva il passaggio del 100%. I francesi poi l'hanno bloccata, hanno creato un calo del titolo di Bichon del 30%. Questo, secondo Fininvest, era voluto, ed ecco perché c'è l'accusa, per andare a comprare nel frattempo il titolo a prezzi più basso, esatto, a prezzi più bassi, per scalarlo, cosa che poi oggettivamente è venuta, non la scalata definitiva, ma si è arrivato al 29%. Allora, e questo ha portato poi la Fininvest a presentare un esposto alla Consob, esatto, e alla Procura. Vivendi ha chiesto danni per diffamazione a Mediaset. Esatto, queste sono le due novità della giornata. Di fronte al giudice Vincenzo Perrozziello, che non è non ha una bella gatta da pelare, ci sono state due presentazioni contestuali di denunce per diffamazione. La prima di Vivendi per le dichiarazioni di Mediaset successive agli eventi, e poi la replica di Mediaset che ha controquerelato Vivendi sempre per diffamazione, e appunto in seguito alle dichiarazioni dell'amministratore delegato De Puy Fontaine che citavi tu prima. E Fininvest continua a sostenere che Vivendi abbia violato comunque il patto parasociale, ma al di là c'è la novità, sono appunto le due cause per diffamazione, una di Vivendi verso Fininvest, l'altra di Mediaset verso Vivendi. Sì, in realtà c'è anche la violazione dei patti parasociali, una novità, e poi c'è la richiesta del giudice che visto che i due procedimenti erano separati, cioè Fininvest contro Vivendi e Mediaset contro Vivendi in un procedimento separato, in realtà il giudice ha chiesto alle parti se era possibile riunificare i due procedimenti. Allora, senti, al di là poi della vicenda giudiziaria, mi sembra che qualunque tentativo, voglio essere quasi eufemistico, di trovare una soluzione, di non arrivare solo alla via giudiziaria in questa vicenda, stia fallendo miseramente, esatto, questa è l'esatta sensazione che abbiamo anche noi, anche se per le querele di diffamazione diciamo che esiste sempre la possibilità di raggiungere un accordo, una mediazione tra le parti, e questo è un obbligo da parte del giudice di cercarla, insomma. Sì, è chiaro che sì, questo come avviene anche nelle controversie tra privati, ma dicevo, diciamo, arrivare a un accordo extragiudiziale in modo da... Sembra sempre più complesso. Sì, anche perché se ormai uno diffama l'altro e l'altro diffama quell'altro, insomma, non mi sembra che si stia svelenendo il clima. Le prossime tappe dal punto di vista dei tempi, della tempistica? Il giudice si è riservato, quindi in realtà non ci sono state delle fissazioni di ulteriori udienze, quindi non ha, dipende dal giudice in buona sostanza. Dipende dal giudice. Vabbè, staremo a vedere, il titolo perde l'1%, ma ripeto, oggi la cosa marginale è la cosa più importante, che appunto i colpi e le accuse da una parte e dall'altra continuano e alzano anche il livello dello scontro. Grazie intanto a Stefano Elli, adesso con grande gioia per tutti quelli che aspettano il tema degli ulivi e della TAP e quindi le dichiarazioni di Emiliano, adesso arriviamo a capire che cosa serve questo gasdotto e che cosa ha detto Emiliano sullo spostamento temporaneo di 221 ulivi che verranno, già 33 spostati con le zolle, verranno poi riposizionati nella sede originaria una volta completati i lavori del gasdotto che parte dal Caspio, attraversa confine turco-greco-Albania e per soli 8 chilometri, perché faccio notare che il gasdotto ha una piccola parte in Italia, nel senso che 550 km sono in Grecia, 215 in Albania, 104 nel Mar Adriatico e 8 km in Italia, e deve portare il gas del Mar Caspio e non servirà solo a noi ma anche all'Italia, aumentando le fonti, i canali, scusatemi, di approvvigionamento. Dicendo che Emiliano, il governatore della Puglia, scusatemi, Emiliano ha detto: noi siamo contrari per 8 chilometri, l'espianto degli ulivi è illegittimo. La cosa interessante è che l'espianto è temporaneo, ha avuto il via libera dal Ministero dell'Ambiente, però è contrario il Dipartimento Regionale della Puglia per l'Ambiente, dove le nomine le fa il governatore della regione. Quindi, nonostante il ministero e vi sia un interesse nazionale, c'è poi il Dipartimento Pugliese che può bloccare la cosa. Devo dire che su questo poi si stanno scatenando anche gli haters cosiddetti, perché, o i webeti, come li chiama qualcuno, perché qualcuno mi ha scritto degli espropri, degli espianti. Guardate che ci sono le compensazioni, in questo caso li rimettono pure lì. E mi risponde: non va bene la compensazione economica, ha idea di quanto riconosca lo Stato, si informi, così poi potrà capire la rabbia della gente. Questo è il classico esempio in cui nulla va bene, gli dici che c'è la compensazione economica, non facciamo più un'opera infrastrutturale allora, se non va bene neanche la compensazione economica. A me ricorda, come si chiama quello di Crozza, Napa 51, ce l'abbiamo Napa del 51? Chiedo, lei è andato a donare sangue? Stavo per andare a donare sangue, solo che la lobby... del Big Pharma, chi ha messo il prelievo alle 8 del mattino? Ma che lobby? Bastardi, è un complotto per non farmi donare il sangue. Ma non è un complotto, solo perché... Ma! No, ma... Bisogna far la spesa! Alzi le chiappe o moriamo di fame! La lobby del Big Pharma non era male. Allora, purtroppo qua il tema è serissimo. Domenico Palmiotti del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Alessandro, buonasera Sebastiano, buonasera a tutti a questo punto, una volta che sbagli il nome di basta, buonasera e basta. Davide Tabarelli, presidente di Nome Sve Energia, buonasera anche a lei. Buonasera, grazie. Bene così. Allora, al di là della lobby del Big Pharma, Domenico, ho ben capito, adesso poi vado sul traffico, ma qui... Perché Emiliano ha detto: noi non possiamo opporci ma ci opponiamo. Insomma, può opporsi la Regione Puglia e bloccare lo spostamento di 200, dei 30 li hanno già spostati, 221 ulivi per bloccare il gasdotto per soli 8 chilometri. Devo dire che il ministro Calenda, tanto lo sapete che a me piace, non sempre, ma spesso piace Calenda, ha detto: è umiliante, dov'è che... È umiliante che 8 chilometri di gasdotto su 877, che è lungo questo gasdotto, solo 8 vanno in Italia, diventino un problema politico. Emiliano ha detto: l'espianto degli ulivi è illegittimo, la regione non può impedirlo perché per il governo il gasdotto è strategico, per il governo, per il paese. E allora può o no bloccarlo? Perché ho visto che ci sono già gli attivisti no TAP. Sebastiano, diciamo che TAP ha avviato l'espianto perché ha già due autorizzazioni all'espianto emesse dal servizio fitosanitario e dal servizio provinciale agricoltura di Lecce. Sia il servizio provinciale agricoltura di Lecce che l'osservatorio fitosanitario sono strutture della Regione Puglia. TAP oggi ha esibito queste autorizzazioni su carta intestata della Regione Puglia, quindi la Regione Puglia da un lato dice no, ma con altre sue strutture dice sì, e quindi questo è un punto, una contraddizione da cui bisogna uscirne. Ecco, TAP ha avviato l'espianto sulla base di queste autorizzazioni, e queste autorizzazioni sino a questo momento non sono state revocate. Inoltre, il Ministero dell'Ambiente appena venerdì scorso ha riesaminato tutto il carteggio TAP e ha detto che la società del gasdotto ha rispettato le prescrizioni per quanto riguarda la cosiddetta fase zero. La fase zero è quella che prevede appunto l'espianto degli ulivi per consentire l'installazione del cantiere che poi dovrà scavare il microtunnel, che è una parte di tutta dell'opera del gasdotto. Che sono appunto gli 8 chilometri, no? Certo. Allora, no, ma è bellissimo, questo paese si occupa anche di 220 ulivi e, come segnalavano prima gli ascoltatori, nessuno però si è preoccupato delle talpe. Andiamo sul traffico e poi vorrei capire... Intanto rispondo a alcuni sms e WhatsApp. È per questo che la mossa di Emiliano sembra politica. Qualcuno mi ha scritto: ma questo era un programma di economia, si occupa di politica? No, ci occupiamo di un gasdotto, veda lei se non è economia. Ma capire perché Emiliano è più preoccupato di 220 ulivi che verranno ricollocati lì con le zolle, del presempio dei 148 milioni di euro che spende ogni anno la Regione Puglia come turismo sanitario verso il nord, e la Regione Puglia deve andare in compensazione per questi, per me resta un mistero, forse spiegabile solo con un posizionamento politico. Traffico. Focus Economia. I wanna be free, set free. Tra l'altro, sulla vicenda del TAP, no, ma c'è molto del paese, del racconto di questo paese in questa vicenda. Tutti d'accordo nel dire che non possiamo restare bloccati come approvvigionamento di gas quando c'è lo scontro tra Kiev e Mosca e andare alle riserve, tutti d'accordo a dire che bisogna trovare altri canali di approvvigionamento, poi quando si devono fare, not in my backyard, non nel mio giardino. Dice Emiliano oggi, TAP più Xylella vanno considerate anche dal governo, ci vuole molta prudenza e soprattutto bisogna evitare le forzature, perché quando si forza la reazione popolare può essere fortissima. E ecco, allora non capisci, ma fai il presidente della regione o ti occupi di fare il capopopolo? Poi TAP più Xylella, mi ha scritto un ascoltatore prima, la Xylella l'hanno messa quella del TAP per evitare, per fare, guardi che non li segano questi ulivi, li spostano. Comunque, da cosa nasce questa cosa, Domenico Palmiotti, tu che fai il corrispondente della Puglia per il Sole 24 Ore, visto che si tratta di un pezzo appunto di 8 chilometri, no? Che devono fare un micro tunnel, poi ricoprire e ci mettono sopra gli ulivi, ho capito bene? Certo. Praticamente il micro tunnel serve a evitare che la condotta del gasdotto attraversi la spiaggia di Melendugno. Oh, quindi il micro perché tunnel l'alternativa è che... lo dico a chi mi sta scrivendo. L'alternativa è che il pipeline, cioè le condotte, attraversino una spiaggia. Ho capito bene? Certo, quindi il microtunnel servirà ad ospitare al suo interno appunto la condotta. Da dove nasce questa opposizione? Anzitutto diciamo che l'opposizione è nata già col governo Vendola, che ha ostacolato, diciamo, la localizzazione a Melendugno. La localizzazione a Melendugno del gasdotto è ritenuta dal Ministero dell'Ambiente già da settembre 2014 come la meno impattante dal punto di vista ambientale, in definitiva la migliore. Il governo Vendola quindi si oppose a questo approdo, però il governo di Michele Emiliano ha insistito in modo molto forte su questo no all'arrivo del gasdotto a Melendugno, un'opposizione che ha visto anche ricorsi alla magistratura amministrativa. Per esempio l'ultimo ricorso fatto è quello di impugnare l'autorizzazione unica rilasciata dal MISE a maggio 2015 al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha tenuto l'udienza il 9 marzo, la sentenza adesso è attesa per i prossimi giorni. Ma come si fa a fare diciamo, pianificazione strategica in un paese quindi, come questo? Scusami, diciamo che... Domenico, ma l'alternativa quale sarebbe? L'alternativa, Emiliano dice, io voglio il gasdotto ma non a Melendugno. E lui aveva inizialmente proposto Brindisi, solo che Brindisi come città, come municipalità, ha rifiutato la localizzazione del gasdotto. Oggi il governatore emiliano parla di Squinzano, che è una località un po' più a nord rispetto a Melendugno, e dichiara, lo stesso Emiliano, che quel comune sarebbe disponibile. Però è evidente che cambiare l'approdo del gasdotto non è come cambiare parcheggio ad una macchina. Significa rifare le progettazioni, rifare la procedura di via, e quindi i tempi del gasdotto evidentemente a quel punto subirebbero dei ritardi. Resta una domanda fuori, professor Tabarelli, quanto ci serve sto gasdotto? Nel senso che io ricordavo la vicenda tra Kiev e Mosca, e quando iniziamo a ragionare quell'estate, oddio, quante riserve di gas abbiamo se arriva l'inverno, e così, e si diceva attenzione, a parte il gas liquido che poi va rigassificato, appunto, occorre avere anche altri canali, cioè se dipendiamo sempre dal corridoio ucraino siamo legati a un'area molto molto delicata. Quanto ci serve? E poi non mi sembra di capire che non serva solo noi, perché è partecipato al 20% da Snam, al 20% da British Petroleum, al 20% dal gruppo dell'Azerbaigian Socar, al 19% dalla belga Fluxys, al 16% dalla spagnola Enagas, e al 5% c'era la Svizzera Axpo. Noi siamo il paese fra quelli industrializzati che più dipende dall'importazione di energia. 90% no? Di gas. Il 90% di gas, ma petrolio anche, perciò il buon senso suggerisce di far diversificazione. L'Europa dipende tuttora per un 60% dei suoi consumi di gas dalle importazioni. L'Europa, come diceva lei, 90%, nonostante che noi ne abbiamo molto, pertanto quello che dobbiamo fare è quello che abbiamo fatto nei passati 70 anni, cioè costruire infrastrutture per importare dall'estero e diversificare. Tra l'altro noi abbiamo, grazie agli investimenti fatti in passato, una delle reti più belle, più sviluppate, più efficienti, più sicure del mondo, 30.000 chilometri. Se fosse vero quello che dicono giù alcuni, non tutti, giù in Puglia, noi dovremmo domani smettere di trasportare gas, perché sotto il nostro territorio ci sono questi tubi che sono simili a quelli che si vorrebbero far passare, ricordo, sotto la spiaggia di San Foca, non sopra ovviamente, e pertanto è una cosa assurda. Ne abbiamo bisogno, noi consumiamo 70 miliardi di metri cubi di gas all'anno, 5 li produciamo, 65 li importiamo, abbiamo una capacità di importazione, occorre riconoscere, molto abbondante, circa 130 miliardi di metri cubi di gas, perciò uno potrebbe dire non serve, ma serve diversificare. Una delle nuove aree, proprio quella del Caspio, sono stati investiti qualcosa come diversi miliardi, 5 miliardi di dollari già per portare dal pieno, da Shah Deniz, questo giacimento nel pieno del Mar Caspio, attraversare tutto quell'area lì, Turchia, arrivare da noi, per fare quello che nei prossimi 20 anni sentiremo parlare molto, perché Calenda vuole al G7 che si farà intorno a maggio a Roma presentare la strategia energetica nazionale, dove uno dei punti qualificanti già del governo Monti con Passer e allora Clini era quello di fare il gas hub, che è termine inglese per dire interconnessione del gas. Noi, come abbiamo già fatto del petrolio, abbiamo un grande vantaggio che l'Italia dai tempi dei Romani, ma anche da prima, siamo nel mezzo del Mediterraneo, vicino alle aree che producono idrocarburi, di cui avremo bisogno per molto tempo, e attaccati alle aree che lo consumano. Non senza, solo... Quindi diventare l'hub, cioè lo smistamento dell'arrivo. Esatto. Sì, G7 non so se sarà a Roma quello, perché ce n'è uno finanziario a Bari proprio, tra l'altro, e poi c'è quello grosso. Quell'energia lo verrà fatto. In questi giorni sta accelerando proprio sulla strategia energetica nazionale, vedere che per qualche olivo tutto viene condizionato o ritardato, e oltre il surreale, veramente tragico, siamo nel baratro, fa parte di tutto questo mondo la Trump, la Brexit. Ma no, adesso mettere insieme Trump con gli olivi, con la Trump non c'entra la mazza, veramente, adesso Tabarelli, onestamente, qui c'è il problema del not in my backyard, cioè del fatto che tutti vogliono le opere, basta che non passino da loro. E su questo, nel ringraziare lei e anche Palmiotti, volevo leggere, per chiosare e chiudere, due messaggi, due. One day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Allora, il sogno è meno demagogia, meno populismo, meno ambientalismo d'accatto solo nel tuo giardino, meno provincialismo. E soprattutto mi scrivono molti ascoltatori su Melendugno e quell'area e leggo che ci sono molte case sulla spiaggia di dubbia pianificazione urbanistica. Perché non vedo mai delle proteste per lo scempio urbanistico che abbiamo fatto anche al sud, anche in Puglia, delle nostre coste? Lì non ho mai... Emiliano dov'è in quei casi? Abbattetele quelle case subito, perché così come ci sono gli ulivi ci sono anche le spiagge da rispettare. Secondo gruppo di SMS che arriva è: ma perché non abbiamo visto manifestazioni quando è stata fatta l'alta velocità, la Brebemi, la parte di Piacenza, tutta l'Emilia Romagna? Perché lì non ci sono i contadini? Non hanno avuto le compensazioni? E lì sono passati sopra, dovevano fare le autostrade, l'alta velocità, oppure potevamo bloccare l'autostrada e l'alta velocità. Questa era una seconda ipotesi. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.